Oggi la Corte, sostanzialmente la Consulta, decreta l'illegittimità della disposizione su come vengono trattati i licenziamenti illegittimi, così come da Jobs Act, ovvero in che modo il datore di lavoro può preventivamente stabilire qual è il costo proprio di licenziamento, che secondo le norme del Jobs Act valeva da 2 mensilità per ogni anno lavorato e quindi di anzianità lavorativa, discriminando fortemente sia i lavoratori e quindi andando contro, come oggi ribadisce la Consulta, sia l'articolo 4 che l'articolo 35 della Costituzione, dove invece i lavoratori hanno pari dignità e devono essere, diciamo, considerati, trattati in modo uguale, ma invece si pronuncia, diciamo, contraria, rende in qualche modo dichiara inammissibili tutte le altre richieste che erano state avanzate, quindi sottoposte proprio alla Consulta. Quello che significa, diciamo, in termini più politici, ma anche più rispetto al mondo del lavoro, questa sentenza è sicuramente che si dà in qualche modo una batosta forte contro uno dei capisaldi del Jobs Act, che era proprio quello di decidere ex ante quanto vale il diritto al lavoro, che viene da un lato eliminato escludendo il reintegro e dall'altro lato monetizzato attraverso in qualche modo un'indennità abbastanza misera. E allo stesso tempo, in qualche modo, in questo modo, definendo a priori qual era sarebbe stata l'indennità di, diciamo, licenziamento, veniva in qualche modo escluso il ruolo attivo anche dei giudici del lavoro, che a quel punto non avevano più niente da fare se non decretare il licenziamento e prendere buono, diciamo, la misura dell'indennizzo. Ecco, e questa parte che è stata appunto definita incostituzionale dalla Consulta non è stata cambiata dal decreto dignità, che invece è di quest'anno, nel senso che ha aumentato sì le mensilità, i limiti delle mensilità minime e massime previste, però non è stato cambiato, quindi ora ci ritroviamo con un nuovo decreto che interveniva sul Jobs Act, che anche questo è incostituzionale secondo i limiti stabiliti dalla Consulta. Sì, certo, nel senso che siccome il decreto dignità non interviene sul calcolo e sulla discriminazione in base all'anzianità dell'indennizzo di licenziamento, di fatto rimane in vigore quanto disponeva il Jobs Act in merito, che oggi però è stato dichiarato incostituzionale. Effettivamente è vero, politicamente il decreto dignità non fa nulla per evitare questa forte discriminazione e diseguaglianza tra lavoratori, però adesso dovranno sicuramente trovare, o comunque quando sarà poi depositata la sentenza con tutte le giustificazioni complete, una nuova modalità e un nuovo intervento legislativo che vada incontro a quanto disposto dalla Consulta. Invece, per quanto appunto riguarda gli effetti proprio sul mondo del lavoro, possiamo aspettarci che ci saranno degli effetti positivi al di là di quelli politici sulle istanze presentate contro il Jobs Act, ma proprio a livello di condizioni e trattamento? Gli effetti sul mondo del lavoro credo che ci verranno raccontati come l'ennesima reintroduzione di una rigidità che impedisce agli imprenditori di gestire i propri costi e di valutare al meglio quelli possono essere gli equilibri di mercato. Tutto questo ovviamente non è vero, anzi, in questo modo la Consulta ha restituito diritti ai lavoratori, soprattutto a quelli più precari, da cui non dipende la volontà di essere assunti da 6 mesi o da 3 anni, perché appunto sono le imprese che domandano lavoro. Però dall'altro lato è vero anche che per i lavoratori non viene reintrodotto, diciamo, l'articolo 18, e quindi la vera tutela al lavoro di essere reintegrati nel caso di un licenziamento illegittimo. Questa rimane una delle grandi battaglie politiche, che ovviamente non può essere demandata o delegata in toto ai giudici, ai tribunali e alla Consulta stessa, ma è appunto una battaglia politica che si deve fare dentro e fuori i luoghi di lavoro. Quello che sappiamo però è che oggi in qualche modo viene messo un paletto a quello che può essere il determinismo che pretendono invece le aziende, ovvero di decidere ex ante quanto un lavoratore costa e quanto invece può risparmiarci una volta licenziato. Questo ovviamente fa il bene dei lavoratori, perché cominciamo a sottrarre e un po' a far ridurre l'idea che siano solo una pura e mera merce di scambio di cui qualcuno ex ante ne decide il prezzo.